Capitolo 2. Ghirlande d'autunno. I giorni seguenti trascorsero veloci, traboccanti delle innumerevoli ultime cose, come Anna le chiamava. Le visite di congedo vennero rese e ricevute, godute o sofferte, a seconda che le persone che venivano a salutarla o che venivano salutate fossero con maggiore o minor convinzione in sintonia con le speranze di Anna, o che la pensassero invece troppo insuperbita all'idea di frequentare l'università e ritenessero quindi loro dovere farle abbassare la cresta. Una sera l'Avis diede una festa di addio in onore di Anna e di Gilbert a casa di Josie Pye, scegliendo quel luogo in parte perché era ampio e comodo, in parte perché temeva, a ragione, che le ragazze Pye se la sarebbero presa a male se l'offerta della loro casa per il ricevimento non fosse stata accettata. Fu una serata piacevole perché le ragazze Pye furono gentili e non fecero né dissero nulla che potesse turbare l'armonia dell'evento, che pure non era proprio all'apice dei loro desideri. Josie fu insolitamente espansiva, al punto da dichiarare addirittura con condiscendenza ad Anna: «Il tuo abito nuovo ti sta molto bene, Anna, davvero ti fa sembrare quasi bella». «Che carino da parte tua dirmi questo», rispose Anna con occhi ridenti. Le si era sviluppato il senso dell'umorismo e i discorsi che l'avrebbero urtata a 14 anni stavano diventando per lei pura occasione di divertimento. Josie ebbe il sospetto che Anna si burlasse di lei per il lampo malizioso dei suoi occhi, ma si contentò di sussurrare a Gertie, quando scesero da basso, che Anna Shirley aveva messo su un sacco di arie da quando aveva deciso di partire per l'università. Da non crederci, c'era tutta la vecchia combriccola e ciascuno traboccava di gioia, di entusiasmo e di giovanile spensieratezza. Diana Barry, tutta rosea e piena di fossette, seguita come un'ombra dal fedele innamorato Fred, Jane Andrews linda, sensibile e genuina, Ruby Gillis al meglio delle sue possibilità in una camicetta di seta color crema e con un geranio rosso tra i capelli. Gilbert Blythe e Charlie Sloane, entrambi impegnati a stare il più vicino possibile all'elusiva Anna. Carrie Sloane, pallida e malinconica perché, secondo quanto si sussurrava, il padre non aveva permesso a Oliver Kimball di accompagnarla. Moody Spurgeon Macpherson, la cui faccia rotonda e le terribili orecchie erano più tonde e terribili del solito, e Billy Andrews, che rimase seduto in un angolo tutta la sera, ridacchiando appena quando qualcuno gli rivolgeva la parola e seguendo Anna con lo sguardo, con un sorriso estatico sulla larga faccia lentigginosa. Anna era stata avvisata in anticipo che ci sarebbe stata una festa, ma nessuno le aveva rivelato che lei e Gilbert, in qualità di fondatori della società, sarebbero stati oggetto di un panegirico ricco di enfasi e di rispettosi omaggi. Un volume delle tragedie di Shakespeare per lei e per Gilbert una penna stilografica. Fu colta talmente di sorpresa e rimase così commossa per le belle parole pronunciate nei suoi confronti e lette da Moody Spurgeon con un tono quanto mai celebrativo e solenne, che presto le lacrime velarono lo splendore dei suoi grandi occhi grigi. Aveva lavorato con lena e con ardore per l'Avis e la constatazione che i suoi membri ne avevano tanto apprezzato gli sforzi le scaldava il cuore. E poi erano tutti così carini, amichevoli e allegri. Perfino le ragazze Pye avevano i loro meriti. In quel momento Anna amava il mondo intero. Assaporò ogni momento di quella sera con gioia infinita, ma la fine per poco non rovinò tutto. Gilbert commise l'errore di sussurrarle qualcosa di sentimentale mentre stavano cenando sulla veranda illuminata dalla luna e Anna, per punirlo, fece la vezzosa con Charlie Sloane e gli consentì più tardi di riaccompagnarla a casa. Scoprì però che le ripicche non colpiscono nessun altro più duramente di chi ha cercato di infliggerle. Gilbert infatti se ne uscì allegramente con Ruby Gillis e Anna ebbe modo di sentirli ridere spensierati mentre indugiavano nell'aria quieta e frizzante dell'autunno. Evidentemente si divertivano come matti, mentre lei era terribilmente infastidita da Charlie Sloane, che parlava senza interruzione, senza dire mai una sola cosa che fosse degna di essere ascoltata. Anna si limitò a buttare qua e là qualche sì o no con aria assente, pensando a quanto era bella Ruby quella sera e a quanto erano bovini gli occhi di Charlie al chiaro di luna, peggio ancora che alla luce del sole. E che la terra, in fondo, non era un posto così delizioso come aveva creduto per tutta la serata. Sono molto stanca. Questa è la verità, si disse quando si ritrovò, grazie al cielo, sola nella sua camera. E onestamente credeva che così fosse, ma un certo piccolo fiotto di gioia, che sembrava provenire da una sorgente segreta e sconosciuta, le sgorgò dal cuore la sera successiva quando scorse Gilbert venirle incontro dal folto del bosco stregato e attraversare il vecchio ponte di travi con il suo caratteristico passo veloce. Dunque, dopo tutto, Gilbert non aveva intenzione di trascorrere la sua ultima sera con Ruby Gillis. «Hai l'aspetto stanco, Anna», disse il giovane. «Sono stanca e ancora peggio di cattivo umore. Sono stanca perché ho preparato bagagli e cucito tutto il giorno. Ma sono di cattivo umore perché ben 6 donne sono venute a salutarmi e tutte e 6 sono riuscite a dirmi qualcosa che ha avuto il potere di togliere colore alla vita, lasciandola grigia e spoglia e triste come un mattino di novembre». Brutte vipere, fu l'elegante commento di Gilbert. Oh, non lo erano affatto, ribatté seria Anna. È proprio questo il punto. Se lo fossero state non ci avrei fatto caso. Erano invece tutte carine e affettuose. Per questo ciò che hanno detto sottinteso mi ha colpito. Mi hanno fatto capire che ero matta ad andare a Redmond per cercare di ottenere una laurea. E da allora ho cominciato a chiedermelo anch'io. La signora Sloane ha detto, sospirando, che sperava che resistessi fino alla fine, e mi sono subito vista al termine del terzo anno privo ormai di ogni speranza e vittima di un esaurimento nervoso. La signora Wright ha sentenziato che soggiornare a Redmond per 4 anni doveva costare un mucchio di quattrini, e io mi sono sentita immediatamente schiacciata dall'imperdonabile colpa di scialacquare il denaro di Marilla e il mio in un'impresa così pazza. La signora Bell si è augurata che non mi lasciassi rovinare dall'università come è accaduto ad altri. E io mi sono sentita in un battibaleno emergere dai miei 4 anni a Redmond come la più insopportabile delle creature, convinta di sapere ogni cosa e occupata a guardare dall'alto in basso tutti quelli diavoli lì. La signora Wright ha affermato di aver saputo da fonte sicura che le ragazze di Redmond, specie quelle che frequentano Kingsport, sono tutte vestite in pompa magna e tutte di alto lignaggio, e di temere quindi che non mi trovassi a mio agio in mezzo a loro. E io mi sono vista snobbata come una sciatta e misera ragazza di campagna a ciabattare in stivalacci con la punta rinforzata di rame nei saloni di Redmond, tempio della cultura umanistica. Anna terminò con una risata punteggiata da un sospiro. Per la sua natura sensibile, ogni commento poco lusinghiero aveva peso, anche se proveniva da persone di cui non aveva grande stima. Per il momento, la vita le appariva priva di sapore e ogni sua passione si era spenta, come la fiamma di una candela al vento. Non devi assolutamente tener conto di quanto ti hanno detto quelle brave signore, protestò Gilbert. Sai perfettamente quanto siano ristrette le loro vedute. Anche se sono persone eccellenti, considerano un sacrilegio osare qualcosa che loro non hanno mai fatto. Tu sei la prima ragazza di Avonlea ad andare all'università e sai bene che i pionieri sono sempre ritenuti un po' folli. Oh, lo so bene, ma saperlo è assai diverso dall'esserci dentro. Il mio buon senso mi suggerisce tutto quello che tu mi dici, ma ci sono momenti in cui il buon senso non ha alcuna presa su di me. Un cattivo senso si è impossessato di me. Davvero, quando la signora Elisha se n'è andata, mi era rimasta a malapena la forza di finire di impacchettare la mia roba. Sei solo stanca, Anna. Su, dimentica tutto questo e vieni a fare una passeggiata con me. Una nostalgica passeggiata attraverso i boschi oltre la palude. Forse c'è qualcosa che voglio mostrarti. Come forse? Non sai se c'è? No, So solo che dovrebbe esserci perché ho visto qualcosa laggiù in primavera. Andiamo, fingeremo di essere tornati bambini e correremo come il vento. Si avviarono ridendo. Anna, memore delle sgarberie della sera precedente, si comportò in maniera assai gentile con Gilbert. Gilbert, dal canto suo, avendo appreso la lezione, ebbe cura di non essere altro che il compagno di scuola di sempre. La signora Linde e Marilla li osservarono dalla finestra della cucina. Un giorno o l'altro nascerà qualcosa tra loro, profetizzò la signora Linde con aria compiaciuta. Marilla trasalì un poco, in cuor suo lo sperava, ma non sopportava di sentirne parlare dalla signora Linde con il suo solito tono pettegolo. Oh, sono ancora dei ragazzi, tagliò corto. La signora Linde uscì in una risatina spontanea. Oh, Anna ha 18 anni, alla sua età io ero già sposata. La verità è che siamo vecchie, Marilla, e ci culliamo nella speranza che i ragazzi non crescano mai. Anna è ormai una giovane donna e Gilbert è un uomo e le muore dietro, come può vedere chiunque abbia occhi. È un gran bravo ragazzo e anche Anna non potrebbe essere meglio. Spero che lei non si metta in testa qualche scempiaggine romantica in quel di Redmond. Il fatto è che non approvo e non ho mai approvato quel genere promiscuo di scuole. Non credo, concluse solennemente, che in quelle università gli studenti riescano a fare molto più che flirtare tra loro. Dovranno pur studiare un poco, disse Marilla con un sorriso. Ah, oh, che sforzo! Sbuffò la signora Rachel. In ogni caso penso che Anna lo farà. Non è mai stata una ragazza facile e flirt, certo, però non apprezza Gilbert nel suo giusto valore. Oh, io conosco le ragazze. Anche Charlie Sloan ha perso la testa per lei, ma io non le consiglierei mai di sposare uno Sloan. Gli Sloan sono brava gente, onesta e rispettabile, non c'è dubbio, ma come ognuno sa e dice, sono sempre degli Sloan. Marilla annuì. Per degli estranei, l'affermazione che gli Sloan erano Sloan poteva presentare dei lati oscuri, ma lei comprese perfettamente. Ogni paesino annovera una famiglia di quel tipo. Per quanto brava gente, onesta e rispettabile, gli Sloan erano Sloan, e tali sarebbero rimasti anche se si fossero messi a parlare il linguaggio degli angeli. Gilbert e Anna, intanto beatamente ignari che il loro futuro venisse così programmato dalla signora Rachel Linde, vagabondavano tra le ombre del bosco stregato. Intorno a loro i covoni splendevano nella luce ambrata del tramonto, sotto un pallido cielo iridescente di blu e rosa. In lontananza i boschetti di rossi abeti rilucevano del colore del bronzo, mentre le loro lunghe ombre disegnavano strisce scure sui prati lungo il pendio dei monti. Nell'aria un venticello cantava tra la chioma degli abeti e già recava un presagio d'autunno. Questo bosco è proprio abitato dai fantasmi ora, ma i fantasmi dei ricordi, mormorò Anna, fermandosi accanto a un ciuffo di felci che il gelo aveva reso di un cereo pallore. È come se Diana ed io, piccole come eravamo un tempo, giocassimo ancora tra queste fronde e ci sedessimo presso la fontana delle Driadi, sul far del crepuscolo, a fissare un appuntamento con gli spiriti. Lo sai che non ho mai potuto percorrere questo sentiero senza provare un brivido e un pizzico dell'antico terrore? C'era uno spettro in particolare che noi ci eravamo inventate, orrendo, il fantasma di un bambino assassinato che ti sorgeva alle spalle all'improvviso, allacciando alle tue le sue dita fredde. Ti confesso che fino ad oggi non ho mai potuto impedirmi, passando di qui dopo il tramonto, di immaginare dietro a me quei piccoli passi furtivi. Non ho paura della dama bianca o dell'uomo senza testa o degli scheletri, ma vorrei non essermi mai figurata in vita mia il fantasma del bambino. Come si alteravano Marilla e il signor Barry per questa faccenda, concluse Anna sorridendo al ricordo. I boschi, intorno all'acqua della palude, erano colmi di scorci color porpora arabescati di ragnatele. Dopo un fitto bosco di nodosi abeti e una valle di aceri inondata dal sole, trovarono finalmente quel qualcosa che Gilbert stava cercando. Ah, eccolo! Esclamò soddisfatto. Un albero di mele, in un posto così fuori del mondo! Esclamò Anna deliziata. Sì, un autentico melo carico di frutti. qui in un folto di pini e di faggi, distanti un miglio almeno da qualsiasi frutteto. Un giorno, la primavera scorsa, sono passato di qui e l'ho visto tutto bianco di boccioli. Guarda quanti frutti! E dall'aspetto sembrano anche buoni, rugginosi e dorati, con una faccia di un rosso cupo. Per lo più le mele selvatiche sono verdognole e poco invitanti. Penso che sia germogliato anni fa da un seme portato qui dal caso, disse Anna, sognante. E come si è fatto grande ed è fiorito, riuscendo a badare a se stesso, solo tra specie aliene, questo coraggioso e volenteroso albero. Qui c'è un tronco caduto con un bel cuscino di muschio. Siedi, Anna, ti farà da trono, un bel trono di legno. Io andrò a cogliere le mele, sono tutte in alto. L'albero ha dovuto sforzarsi di raggiungere il sole. Le mele si rivelarono deliziose. Sotto la scorza dorata la polpa era bianchissima, appena venata di rosso, e il gusto possedeva un tocco di sapore selvatico e delizioso che non aveva nessuna mela coltivata. La fatale mela dell'Eden non può aver avuto un sapore più dolce, commentò Anna. Ma è tempo che torniamo a casa. Vedi, 3 minuti fa era il crepuscolo e ora c'è già il chiaro di luna. Che peccato non aver colto l'attimo del mutamento. Ma ci sono attimi che nessuno può mai afferrare, credo. Costeggiamo la palude per tornare indietro e passiamo dal sentiero degli innamorati. Sei ancora di cattivo umore? Come quando siamo usciti di casa, Anna? Oh, no, davvero. L'albero delle mele ha fatto miracoli con la mia crisi. Sento di amare Redmond e sono convinta che vi passerò degli anni splendidi. E dopo questi 4 anni, che farai? C'è sempre un'altra strada alla fine del sentiero, rispose Anna piano. Non so che cosa succederà e non voglio saperlo. Preferisco non sapere nulla. Il sentiero degli innamorati era delizioso quella sera, quieto e misterioso nella pallida luminosità della luna. I due giovani indugiarono in un silenzio intimo e dolce, senza che nessuno osasse parlare. Ah, se Gilbert fosse sempre come stasera, quanto sarebbe tutto semplice, rifletteva Anna. Gilbert la osservava, camminandole accanto. Nell'abito chiaro, delicata nella sua esilità, la ragazza gli faceva pensare a un ireo sbianco. Chissà se potrò mai farla innamorare di me, pensò con una fitta di sconforto.